يونس، جونا. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Questi sono i versetti del libro saggio. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Perché la gente si stupisce se abbiamo fatto scendere la rivelazione a uno dei loro? Avverti le genti e dà a coloro che credono la lieta novella che la loro sincerità li precede presso il loro Signore. I miscredenti dicono: costui è certamente un vero stregone. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbirul amr. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. In verità, il vostro Signore è Allah, colui che in sei giorni creò i cieli e la terra, quindi si innalzò sul trono a governare ogni cosa. Non vi è alcun intercessore senza il suo permesso. Questi è Allah, il vostro Signore. Adoratelo. Rifletterete in proposito? Ilaihi marji'ukum jami'a. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. A lui tutti ritornerete, promessa di Allah veritiera. È lui che ha iniziato la creazione e la reitera per compensare secondo giustizia coloro che credono e compiono il bene. Quanto a coloro che sono stati miscredenti, saranno abbeverati con acqua bollente e avranno un castigo doloroso a causa di ciò che hanno negato. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. È lui che ha fatto del sole uno splendore e della luna una luce, e ha stabilito le sue fasi perché possiate conoscere il numero degli anni e il computo. Allah non creò tutto ciò se non in verità. Egli estrinseca i suoi segni per la gente che conosce. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. In verità, nell'alternarsi del giorno e della notte e in ciò che Allah ha creato nei cieli e sulla terra, ci sono segni per genti che lo temono. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. In verità, coloro che non sperano nel nostro incontro e si accontentano della vita terrena e ne sono soddisfatti, e coloro che sono noncuranti dei nostri segni, أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Avranno come loro rifugio il fuoco per ciò che hanno meritato. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Coloro che credono e compiono il bene, Allah li guiderà grazie alla loro fede. Ai loro piedi scorreranno i ruscelli nei giardini della delizia. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Colà la loro invocazione sarà: Gloria a te, Allah. Il loro saluto: pace. E l'ultima delle loro invocazioni sarà: La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Se Allah affrettasse la disgrazia degli uomini con la stessa fretta con cui essi cercano il benessere, il loro termine sarebbe compiuto. Lasciamo invece procedere la cieca nella loro ribellione coloro che non sperano nel nostro incontro. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Quando la disgrazia lo tocca, l'uomo ci invoca, coricato su un fianco, seduto o in piedi. Quando poi lo liberiamo dalla sua disgrazia, si comporta come se non ci avesse mai invocato a proposito della disgrazia che lo aveva colto. Così abbelliamo agli empi le azioni loro. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Facemmo perire le generazioni precedenti perché furono ingiuste. Messaggeri della loro gente avevano portato le prove, ma essi non furono disposti a credere. Compensiamo così gli empi. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Quindi vi costituimmo dopo di loro vicari sulla terra per vedere come vi sareste comportati. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Quando vengono recitati i nostri segni, prove evidenti, coloro che non sperano di incontrarci dicono: portaci un Corano diverso da questo, oppure modificalo. Di: non posso permettermi di modificarlo di mia volontà. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Se disobbedissi al mio Signore, temerei il castigo di un giorno terribile. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Di: se Allah avesse voluto, non ve lo avrei recitato ed egli non ve lo avrebbe fatto conoscere. Sono rimasto tutta una vita tra voi prima di questo. Non riflettete dunque? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Chi è peggior ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah e taccia di menzogna i suoi segni? Gli empi non avranno riuscita. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Quello che adorano in luogo di Allah non li danneggia e non giova loro. Dicono, essi sono i nostri intercessori presso Allah. Di, volete informare Allah di qualcosa che non conosce nei cieli e sulla terra? Gloria a Lui, Egli è ben più alto di ciò che gli associano. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رب بك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Gli uomini non formavano che un'unica comunità, poi furono discordi. Se non fosse giunta in precedenza una parola del tuo Signore, sarebbe già stato deciso a proposito di ciò su cui erano discordi. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. E dicono, perché non viene fatto scendere su di lui un segno del suo Signore? Di, in verità l'invisibile appartiene ad Allah. Aspettate e sarò con voi tra coloro che aspettano. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Quando usiamo misericordia agli uomini dopo che li ha colpiti una disgrazia, essi tramano contro i nostri segni. Di, Allah è il più rapido degli strateghi. I nostri angeli registrano le vostre trame. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين دين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Egli è colui che vi fa viaggiare per terra e per mare. Quando siete su battelli che navigano col buon vento, gli uomini esultano. Quando sorge un vento impetuoso e le onde si alzano da ogni parte, invocano Allah e gli rendono un culto puro. Se ci salvi, saremo certamente riconoscenti. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Quando poi Allah li ha salvati, ecco che si mostrano ribelli sulla terra. O uomini, invero la vostra ribellione è contro voi stessi. Avrete gioia effimera nella vita terrena, e poi sarete ricondotti verso di noi. E allora vi informeremo circa il vostro operato. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. In verità questa vita è come un'acqua che facciamo scendere dal cielo e che si mescola alle piante della terra di cui si nutrono gli uomini e gli animali. Quando la terra prende i suoi ornamenti ed è rigogliosa di bellezza, i suoi abitanti pensano di possederla, ma giunge il nostro decreto di giorno e di notte e la rendiamo spoglia come se il giorno prima non fosse fiorita. Così esplichiamo i nostri segni a coloro che riflettono. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah chiama alla dimora della pace e guida chi egli vuole sulla retta via. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bene a chi fa il bene, e ancor di più. Polvere e umiliazione non copriranno i loro volti. Essi sono i compagni del giardino e vi resteranno in perpetuo. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. E coloro che hanno commesso azioni malvagie vedranno pagato col male il male loro. Saranno avvolti nella vergogna, senza nessun protettore al cospetto di Allah, come se i loro volti fossero coperti di oscuri lembi di notte. Essi sono i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Il giorno in cui li raduneremo tutti, diremo ai politeisti: state in disparte voi e vostri soci, e li separeremo gli uni dagli altri. Diranno i loro soci: non adoravate certamente noi. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Ci sia Allah sufficiente testimone che non ci siamo mai curati della vostra adorazione. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Colà, ogni anima subirà le conseguenze di quello che già fece, e saranno ricondotti ad Allah, il loro vero padrone, mentre ciò che avevano inventato li abbandonerà. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Di, chi vi provvede il cibo dal cielo e dalla terra? Chi domina l'udito e la vista? Chi trae il vivo dal morto e il morto dal vivo? Chi governa ogni cosa? Risponderanno: Allah. Allora di: non lo temerete dunque? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Questi è Allah, ecco il vostro vero Signore. Oltre la verità, cosa c'è se non l'errore. Quanto siete sviati! كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Si attua così il decreto del tuo Signore contro i perversi che mai crederanno. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. دي C'è qualcuno dei vostri dei che inizia la creazione e la reitera? Di. Allah inizia la creazione e la reitera. Come vi siete distolti? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. دي Quale dei vostri soci può guidare alla verità? Di, Allah guida verso la verità. Ha più diritto di essere seguito chi conduce alla verità o chi non sa dirigersi a meno che non sia guidato? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. La maggior parte di loro non inseguono che congetture. In verità, le congetture non prevalgono in alcun modo sulla verità. Allah sa bene quello che fanno. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Questo Corano non può essere forgiato da altri che Allah, ed anzi è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata del libro del Signore dei Mondi, a proposito del quale non esiste dubbio alcuno. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oppure diranno, è lui che lo ha inventato. Di, portate una sura simile a questa e chiamate a collaborare chi potrete all'infuori di Allah, se siete veritieri. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Sì. Tacciano di menzogna la parte di scienza che non abbracciano, che ancora non è giunta loro la spiegazione, e in tal modo accusarono di menzogna coloro che vennero prima di loro. Ebbene, considera quale fu la sorte degli ingiusti. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وربك أعلم بالمفسدين. Tra loro c'è qualcuno che crede in esso, mentre altri non vi credono affatto. Il tuo Signore è colui che meglio conosce i corruttori. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Se ti danno del bugiardo, di loro: a me le opere mie e a voi le vostre. Non siete responsabili di quello che faccio, non lo sarò io di quel che fate voi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Tra loro c'è qualcuno che ti ascolta. Potresti far sentire i sordi che non sono in grado di capire? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Qualcun altro guarda verso di te. Potresti guidare i ciechi che nulla vedono? إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. In verità Allah non commette nessuna ingiustizia verso gli uomini. Sono gli uomini che fanno torto a loro stessi. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Il giorno in cui li riunirà sarà come se fossero rimasti solo un'ora e si riconosceranno tra loro. Quelli che hanno tacciato di menzogna l'incontro con Allah sono perduti, che erano privi della guida. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Sia che ti facessimo vedere una parte di ciò con cui li minacciamo, sia che ti facessimo morire prima, è comunque verso di noi che ritorneranno. Quindi Allah sarà testimone di quello che avranno fatto. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ogni comunità ha un messaggero. Dopo che il messaggero sarà venuto, verrà giudicato tra loro con giustizia e nessuno subirà un torto. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E dicono: quando si realizzerà questa promessa, se siete sinceri? قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Di, io non possiedo da me stesso né danno né profitto all'infuori della volontà di Allah. Ogni comunità ha il suo termine. Quando esso giunge, non viene concessa né un'ora di ritardo né una di anticipo. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Di, se il suo castigo vi colpisse di notte o nella giornata, gli empi potrebbero affrettarne una parte? أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Quando ciò avverrà, crederete? Verrà detto loro: solo ora ci credete, mentre prima volevate affrettarlo? Summa qila lilladhina zalamu dhuqu 'adhabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Poi verrà detto a coloro che sono stati ingiusti: gustate il castigo perpetuo. Vi si paga con qualcosa di diverso da ciò che avete meritato? وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Ti chiederanno: è vero? Di: sì, lo giuro in nome del mio Signore, è la verità, e non potrete sottrarvi alla potenza di Allah. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ogni anima peccatrice pagherebbe per riscattarsi tutto quello che c'è sulla terra se lo possedesse. Nasconderanno il loro rimpianto quando vedranno il castigo. Si deciderà di loro con giustizia e non subiranno alcun torto. Alla inna lillahi ma fis samawati wal ard. Alla inna wa'da Allahi haq. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. In verità ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra, e la promessa di Allah è verità, ma la maggior parte di loro non sanno nulla. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Egli dà la vita e la morte. Verso di lui sarete ricondotti. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O uomini, vi è giunta un'esortazione da parte del vostro Signore: guarigione per ciò che è nei petti, guida e misericordia per i credenti. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Di loro che si compiacciano della grazia di Allah e della sua misericordia, che ciò è meglio di quello che accumulano. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Di, cosa pensate del cibo che Allah ha fatto scendere per voi e che dividete in illecito e lecito? Di, è Allah che ve lo ha permesso oppure inventate menzogne contro Allah? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Cosa penseranno nel giorno della resurrezione coloro che inventano menzogne contro Allah? In verità Allah possiede la grazia per gli uomini, ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. In qualunque situazione ti trovi, qualunque brano del Corano reciti e qualunque cosa facciate, noi siamo testimoni al momento stesso in cui la fate. Al tuo Signore non sfugge neanche il peso di un atomo sulla terra o nel cielo. Non c'è cosa alcuna, più piccola o più grande di ciò, che non sia registrata in un libro esplicito. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. In verità, quanto agli intimi, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Coloro che credono e sono timorati. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Gli attende la lieta novella in questa vita e nell'altra. Le parole di Allah non subiscono alterazione. Questo è l'immenso successo. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. non ti addolorino le loro parole. Tutta la potenza appartiene ad Allah, egli è udiente, sapiente. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi wa ma يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Certamente appartiene ad Allah tutto ciò che è nei cieli e ciò che è sulla terra. Cosa seguono coloro che invocano consoci all'infuori di Allah? Non inseguono che vane congetture e non fanno che supposizioni. Huwallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Egli ha fatto per voi la notte affinché riposiate e il giorno affinché vi rischiari. In verità in ciò vi sono segni per la gente che ascolta. Qalu ittakhadha Allahu walada. Subhanahu, huwa al-ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. In 'indakum min sultanin bihadha. أتقولون على الله ما لا تعلمون. Dicono: Allah si è preso un figlio. Gloria a lui, egli è colui che basta a se stesso. Gli appartiene tutto quello che è nei cieli e tutto quello che è sulla terra. Non avete nessuna prova per dire ciò. Direte su Allah ciò che non sapete? قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Di: coloro che inventano menzogne contro Allah non prospereranno. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Avranno gioia effimera nella vita terrena, quindi ritorneranno a noi e faremo gustare loro un castigo severo per la loro miscredenza. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. Racconta loro la storia di Noè, quando disse al suo popolo: «O popolo mio, se la mia presenza e il mio richiamo ai segni di Allah vi sono insopportabili, io mi affido ad Allah. Prendete le vostre decisioni insieme coi vostri consoci e non abbiate scrupoli nei miei confronti. Stabilite quello che volete fare di me senza porre indugi». فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. E se mi voltate le spalle, non vi chiedo ricompensa alcuna. La mia ricompensa è in Allah e ho ricevuto l'ordine di essere uno dei musulmani. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Lo trattarono da bugiardo. Noi lo salvammo, lui e coloro che erano nell'arca con lui, li facemmo successori, e affogammo coloro che tacciavano di menzogne i nostri segni. Guarda quello che è successo a coloro che erano stati avvertiti. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Dopo di lui mandammo altri messaggeri ai loro popoli. Vennero loro con le prove, ma la gente non volle credere a ciò che in principio aveva tacciato di menzogna. Così suggelliamo i cuori dei trasgressori. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dopo di loro mandammo con i nostri segni Mosè e Aronne a Faraone e ai suoi notabili. Essi furono orgogliosi. Era gente perversa. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Quando giunse loro la verità da parte nostra, dissero: questa è magia evidente. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Disse Mosè: vorreste dire della verità dopo che vi si è manifestata questa è magia? I maghi non avranno riuscita alcuna. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. Dissero: sei venuto per allontanarci da quello che i padri ci hanno tramandato e per far sì che la grandezza sulla terra appartenga a voi due? Non vi crederemo. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. disse Faraone, conducetemi ogni mago sapiente. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ Quando poi giunsero i maghi, Mosè disse loro: gettate quello che avete da gettare. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ Quando ebbero gettato, Mosè disse: quello che avete prodotto è magia. In verità, Allah la vanificherà. In verità, Allah non rende prospero l'operato dei corruttori. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Allah conferma il vero con le sue parole, a dispetto dei perversi. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Nessuno credette in Mosè, eccetto alcuni giovani della sua gente, temendo che Faraone e i loro notabili li mettessero alla prova. Era tiranno sulla terra Faraone, era uno dei trasgressori. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Disse Mosè: o popolo mio, se credete in Allah, abbiate fiducia in lui, se siete musulmani. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Dissero: ci affidiamo ad Allah. O Signor nostro, non fare di noi una tentazione per gli oppressori. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Liberaci per la tua misericordia da questo popolo di miscredenti. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Rivelammo a Mosè a suo fratello: preparate in Egitto case per il vostro popolo, fate delle vostre case luoghi di culto e assolvete all'orazione. Danne la lieta novella ai credenti. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Disse Mosè: O Signor nostro, in vero hai dato a Faraone e ai suoi notabili onori e beni della vita terrena, affinché, o Signor nostro, si distolgano dal tuo sentiero. O Signor nostro, cancella i loro beni e indurisci i loro cuori, che non credano fino a che non avranno visto il castigo doloroso. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah disse: La vostra richiesta è esaudita. State saldi entrambi e non seguite il sentiero di coloro che non sanno nulla. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. E facemmo attraversare il mare ai figli di Israele. Faraone e le sue armate li inseguirono per accanimento e ostilità. Poi, quando fu sul punto di annegare, Faraone disse: Credo che non c'è altro Dio all'infuori di colui in cui credono i figli di Israele, e sono tra coloro che si sottomettono. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Disse Allah: Ora ti penti quando prima hai disobbedito ed eri uno dei corruttori? فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Oggi salveremo il tuo corpo affinché tu sia un segno per quelli che verranno dopo di te. Ma in verità, la maggioranza degli uomini sono incuranti dei segni nostri. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Insediamo i figli di Israele in un paese sicuro e gli provvedemmo di cibo eccellente, e non furono discordi se non quando venne loro la scienza. In verità il tuo Signore, nel giorno della resurrezione, deciderà a proposito delle loro divergenze. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. E se dubiti a proposito di ciò che abbiamo fatto scendere su di te, interroga coloro che già prima recitavano le scritture. La verità ti è giunta dal tuo Signore, non essere tra i dubbiosi. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. E non essere tra coloro che smentiscono i segni di Allah, che saresti tra i perdenti. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. In verità, coloro contro i quali si realizza la parola del tuo Signore non crederanno. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Anche se giungessero loro tutti i segni, finché non vedranno il castigo terribile. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Ci fosse stata almeno una città credente cui fosse stata utile la sua fede, a parte il popolo di Giona. Quando ebbero creduto, allontanammo da loro il castigo ignominioso in questa vita e li lasciammo godere per qualche tempo. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli ad essere credenti? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Nessuno può credere se Allah non lo permette. Egli destina l'abominio coloro che non ragionano. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ. Di: osservate quello che c'è nei cieli e sulla terra, ma né i segni né le minacce serviranno alla gente che non crede. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Cos'altro aspettano se non giorni simili a quelli di coloro che vissero prima di loro? Di: aspettate, sarò con voi tra coloro che aspettano. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Infine salveremo i nostri messaggeri e coloro che credono. Salvare i credenti è incombenza nostra. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Di: o uomini, se avete qualche dubbio sulla mia religione, confermo che io non adoro quello che voi adorate all'infuori di Allah, ma adoro Allah che vi farà morire. Mi è stato ordinato di essere uno di coloro che credono. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. E mi è stato ordinato: sii sincero nella religione, non essere un associatore. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. E non invocare all'infuori di Allah chi non ti reca né beneficio né danno. Se lo facessi, saresti uno degli ingiusti. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Se Allah decreta che ti giunga una sventura, non c'è nessuno eccetto Lui che possa liberartene. E se vuole un bene per te, nessuno può ostacolare la sua grazia. Egli ne gratifica chi vuole tra i suoi servi. Egli è il perdonatore, il misericordioso. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Di, o uomini, vi è giunta la verità da parte del vostro Signore. Chi è sulla retta via lo è per se stesso, e chi se ne allontana lo fa solo a suo danno. Io non sono responsabile di voi. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Segui ciò che ti è stato rivelato e sopporta con pazienza finché Allah giudichi. Egli è il migliore dei giudici.